America 24 di Mario Platero. Pasta puttanesca. Risotto. Chi è il personaggio che parla di questi piattini italiani? Benvenuti ad America 24. Da Washington, Mario Platero, dove ho finito di seguire la visita del Presidente della Repubblica. E mentre immagino, spero, cerchiate di capire chi è il personaggio che parlava, vi faccio sentire di nuovo un po' della sua voce. Because I was asked by my brother. Il personaggio, che per ora lasciamo ancora misterioso, dice che è qui, in questo posto dove lo incontriamo, e vi dirò poi dov'è, per il suo fratellino, ma anche per il suo fratello maggiore. Chi è il fratello maggiore? Dice il fratello maggiore di un'altra madre, Bill Clinton, con cui, dice, ho passato momenti bellissimi alla Casa Bianca. Allora, il personaggio, se non l'avete ancora capito, beh, non è facilissimo, e Quincy Jones, uno dei più grandi autori, produttori di musica americana, il padre di una gran quantità di artisti, a partire dai fratelli Jackson e da Michael Jackson. E dov'è Quincy Jones? Dove lo incontriamo? Quincy Jones e l'inno d'Italia. Beh sì, Quincy Jones è venuto qui all'Omni Shoreham Hotel, un enorme albergo a Washington, per partecipare a una delle più grandi feste italo-americane che si tengano in America, una festa organizzata dall'Orders of Sons of Italy, che è un'organizzazione nazionale di italo-americani che rappresenta ben 26 milioni di americani di origine italiana. Naturalmente promuove cultura, tradizioni, linguaggio, il contributo che gli italiani hanno dato a questo paese. Devo dire, ogni volta che mi capita di andare a un evento organizzato dagli italo-americani, mi rendo conto dell'importanza del legame che questi nostri cugini d'oltre Atlantico hanno nei confronti del nostro paese. E vorrei dire che spesso forse noi non ricambiamo con altrettanto entusiasmo l'affetto che ci dimostrano. Molti di loro ormai sono arrivati, sono dei pilastri addirittura della storia americana, e dunque hanno questa fortissima identità. Un'identità che naturalmente poi esprime anche la grande passione per questo paese che ha accolto loro, i loro nonni, i loro bisnonni, i loro padri, e che gli ha dato una vita in molti casi straordinaria e piena di soddisfazione, e dunque immancabile in questa occasione qui all'Omni Sharon anche l'inno americano. Ecco, subito dopo gli inni ha parlato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che lo faccio sentire adesso perché credo meriti, e perché l'emozione di questi italoamericani che ascoltavano il Presidente della Repubblica italiana, un Presidente peraltro, devo dire, bravissimo, che ha parlato in inglese, ha detto delle cose molto interessanti, ha lasciato davvero il segno. Sentiamo Giorgio Napolitano. You can be proud of Italy as we are proud of you. Italia in America. Ecco, il discorso del Presidente è stato un discorso direi piuttosto interessante, una visita tra l'altro che secondo me è andata molto bene, perché il Presidente della Repubblica ha portato degli elementi di sostanza sia sul piano politico, collocando l'Europa in un contesto in cui deve guardare in avanti e non guardare indietro, e spiegando dunque agli americani che la forza dell'euro e l'integrazione europea continueranno ad andare avanti, e due, ha dato anche un quadro economico spiegando come si potrà rafforzare l'euro. Ma di tutto questo naturalmente con gli italo-americani il Presidente ha parlato meno. Ha detto alla fine del suo discorso, in cui ha ricordato anche episodi dei suoi momenti in America quando era più giovane, ha detto: voi potete essere orgogliosi dell'Italia e noi possiamo essere orgogliosi di voi italo-americani. E poi gli applausi. Bravo Italian, bravo. And he calls me fratellino. He's younger brother. I Sons of Italy, questa associazione di italo-americani, ha dato un premio l'altra sera a Franco Nuschese. Avete ascoltato la sua voce. Franco Nuschese è un italiano, è nato in Italia, ma è arrivato in America per andare a lavorare quasi immediatamente a Las Vegas, nella ristorazione e nel mondo dello spettacolo. È stato lì che Franco Nuschese ha conosciuto Quincy Jones, e dice: siamo diventati talmente amici che oggi lui mi chiama il fratellino, lo dice anche in italiano, il suo fratello minore Franco Nuschese ha presentato, ha introdotto Quincy Jones a questo grande pubblico che non se lo aspettava. Franco Nuschese, che ha un ristorante di grande successo a Washington che si chiama appunto Caffè Milano, dove il presidente Bill Clinton andò a mangiare poco dopo aver vinto le elezioni, perché ha ricordato lo stesso presidente Bill Clinton, che è stato poi introdotto da Quincy Jones, ha ricordato che il ristorante di Nuschese aprì il giorno stesso in cui lui vinse le elezioni presidenziali. Quincy Jones, we have been friends a long time. We've had a lot of late night talks. Bill Clinton, il presidente americano, l'ex presidente americano, avete sentito la sua voce, anche lui è premiato per il successo che ha avuto. E Bill Clinton ricorda l'amicizia sia con Quincy Jones che ha poi sviluppato anche con Franco Nuschese. E di Quincy Jones dice che è un amico di vecchissima data, mi ha aiutato nei momenti difficili, mi è stato vicino, con lui abbiamo passato lunghe serate e nottate a parlare. Un ristoratore, un cantante, un ex presidente degli Stati Uniti, raccolti insieme a una festa italo-americana. Potrebbe sembrare surreale, ma in America è normale. Ha portato all'estasi naturalmente il pubblico, ci saranno state 600-700 persone e dunque una festa straordinaria alla quale ha partecipato anche il nostro presidente. Una notizia di cronaca: sta andando avanti il tentativo di tappare la falla petrolifera nel Golfo del Messico, sembra con successo, c'è stata una interruzione, i lavori sono poi ripresi nella notte, continuano, c'è più ottimismo che pessimismo, forse già nella giornata di oggi avremo conferma se l'operazione ha avuto successo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Sentiamo di nuovo Quincy Jones. Oh, Tony Rennes, right? Yes, exactly. Nella nostra conversazione Quincy Jones mi parla di Tony Rennes, suo vecchissimo amico. Hanno lavorato insieme e si sentono ancora, dice, molto spesso. Gli chiedo che canzone possiamo farvi ascoltare e a sua scelta, a gentile richiesta di Quincy Jones, per voi We Are The World. Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.